l'Associazione Culturale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, poem, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women move forward like the runners in a stream. And they spread themselves before me, an offering so sweet. And they beckoned, and they beckoned, come on, daddy, and eat. Eat the summer cannibals, eat, eat, eat. You eat the summer. Buonasera a tutte da Connettive, questa sera leggiamo un pezzo di Femme Fatale, due pezzi veramente, uno di Femme Fatale che è una sopravvissuta alla prostituzione, e un pezzo contro l'inganno del sex work come empowerment che ha scritto il 4 marzo 2015. Femme Fatale, dicevamo, è una sopravvissuta alla prostituzione che racconta la sua esperienza come escort, smascherando le bugie che circondano il sex work nella comunicazione mainstream e di un certo femminismo neoliberista che la glamorizza e promuove solo per le altre, però, come possibilità per le donne di autoaffermarsi, conquistare indipendenza ed esprimere la propria libertà sessuale. Femme Fatale ci dice la verità anche sulla cosiddetta girlfriend experience, la richiesta da parte del compratore di sesso di una finzione di relazione, una forma di esercizio di potere veicolato dal denaro ancora più subdola e violenta, che rappresenta l'esatto controcanto della libertà di disporre di noi stesse, corpo e mente insieme, libertà per cui le donne hanno lottato e continuano a lottare. Ma lasciamo direttamente la parola a Femme Fatale. She looks out to the mirror glass, she sees a handsome horse sitting right up, and she says, that man's gonna be my death, 'cause he's all I ever wanted in my life. I know he doesn't know my name, and that all the girls are all the same to him, but still I gotta get out of this place, 'cause I don't can face another night where I'm half sick of shadows, and I can't see the sky. Everyone looks and watches the tide comes in, so I can't hide. And it's raining and the stars are falling from the sky, and the wind, I know it's gone. I've been waiting for the day I will surely die, and it's here, and it's here, for I've been told. È successo a me. Sono stata una escort per 8 anni, credendo che mi avrebbe permesso di realizzarmi in modo autodeterminato. Ma non è andata così. Prima di diventare una escort, avevo studiato per ottenere un SSTC in inglese, con alti e bassi, per vari anni. Questo progetto non si è realizzato per diverse ragioni logistiche e a un certo punto ho abbandonato il sogno per diventare una prostituta. Prima di fare il salto, cominciai a seguire diligentemente un corso di studi sul femminismo e ogni forma di sex work. Come molte altre persone, credevo veramente che essere una escort fosse una cosa femminista e che mi avrebbe garantito autonomia e realizzazione sociale e personale. Non era così, e quello che pensavo non è successo. Forse questo percorso ha incoraggiato altre donne e le ha aiutate a ottenere un senso di maggiore parità all'interno del patriarcato, ma questo non coincide con la mia esperienza personale. Sono stata incuriosita dall'industria del sesso e dal mio potenziale come sex worker per molti anni prima di entrare a farne parte. Lessi voracemente ogni tipo di libro che riuscivo a trovare sull'argomento. All'inizio pensavo che avrei scelto una carriera come spogliarellista, ma dopo una ricerca approfondita sul tema, realizzai che le spogliarelliste lavoravano moltissimo per guadagnare 2 lire. I veri soldi si facevano con l'escorting. Ed ero molto interessata a fare molti soldi. Ero come accecata dal simbolo del dollaro, assolutamente dissociata e determinata a concretizzare la mia decisione. Nel giro di una settimana ero diventata una escort. Era stato molto più facile di quanto pensassi. Avevo cominciato in modo naif e su alcuni siti improbabili, ma individuai presto i forum nei quali progettare il mio business. E in breve i miei soldi giornalieri si moltiplicarono e non avevo neanche ore del giorno sufficienti per soddisfare la domanda. Diventai presto una delle top escort del sito e gli uomini si prenotavano con settimane di anticipo per incontrarmi. Riuscivo ad ottenere ottime recensioni giornalmente e il mio business era al punto di massima espansione. Ero single e arricchivo la mia sessualità mentre guadagnavo autonomia sia come donna, sia come entità commerciale, sia come femminista. Ero tutte queste cose insieme. O almeno pensavo che fosse così. Una volta sistemata, continuavo a studiare sex work e femminismo. Come molte altre sex workers femministe, pensavo che stavo sviluppando il mio potenziale come donna in una società patriarcale e che in qualche modo stavo aiutando il movimento femminista ad avanzare grazie alla mia carriera. Pensavo che esplorare, possedere e vendere la mia identità sessualità fosse un atto di potere. Continuavo a essere convinta che quello che stavo facendo era un caso esemplare di tutto quello che stavo leggendo sulle donne che erano le più forti, le più potenti, le più al passo coi tempi e che attraverso il mio esempio stavo aiutando le donne a costruire un percorso di parità in un mondo dominato dal maschile. Quando però la dissociazione, il successo e la fama se ne andarono, cominciai a capire che mi ero davvero sbagliata. Dopo molti anni la delusione cominciò a manifestarsi e mi risvegliai traumatizzata ed esausta, disillusa, amareggiata e sola, depressa in modo orribile. La gratificazione egocentrica che il lavoro mi aveva dato per così tanti anni se n'era semplicemente andata. Non mi sentivo più una persona di successo, intelligente o sexy. Il sex work è il gioco esasperante di assecondare il narcisismo maschile. Se sei una sex worker, fa parte letteralmente del tuo lavoro far sentire un uomo speciale, superiore e soddisfatto, come se fosse l'unico essere vivente del pianeta. Questo aspetto del lavoro davvero non lascia nessuno spazio libero per te stessa. Non esiste nessuna possibilità di esplorare un qualche aspetto di te o della tua identità o un qualche tipo di crescita personale, perché non c'è spazio per te in questa equazione. L'idea che il sex work mi avrebbe permesso di esplorare, scoprire e arricchire me stessa si è rivelata un puro e semplice mito della mia esperienza. Il maschio si fermava al mio aspetto fisico. Così, dopo molti anni, sono rimasta letteralmente con un guscio vuoto, cercando di ritrovarmi nello specchio. Non sono riuscita nemmeno a imparare qualcosa sui miei gusti nella sfera sessuale, che cosa mi piaceva e cosa no, perché ancora una volta non c'è spazio per l'espressione personale nella transazione economica tra una puttana e il suo cliente. È tutto incentrato su di lui, i suoi desideri sessuali, le sue perversioni e i suoi bisogni. Poi ci sono anche i suoi bisogni emotivi, ed è ancora più esasperante cercare di soddisfare questi che le inclinazioni sessuali. Un vecchio detto dice che il cliente paga una puttana per potersene disfare, ma la verità è che i clienti che ho incontrato negli anni hanno dimostrato di avere bisogni emotivi profondi che non vengono soddisfatti nelle loro vite personali. Essere una prostituta è molto simile a essere una barista ed è molto simile a essere una terapeuta. La parte sessuale dell'incontro di solito durava poco a causa dei limiti fisici. E come si comporta un uomo che è appena entrato sessualmente in intimità con te? cominciò a parlare della sua vita emotiva. E quello che sarebbe una pausa desiderabile dalla richiesta fisica diventa invece la vera parte drenante dell'incontro. Non volevo assolutamente sapere niente di quegli uomini, da quel punto di vista. Ho la mia vita di cui occuparmi e non sono mai stata interessata a impiegare la mia energia, che mi è necessaria, per fingere che mi interessi di loro, per cercare di confortarli e tentare di rimetterli a posto. Poi viene alla luce il nodo pericoloso, quando sesso, intimità e emozioni si intrecciano. Ma sono stati stabiliti dei confini pattuiti in anticipo nella transazione. Questi uomini che mi pagavano per non avere legami si rendevano presto conto della loro incapacità di penetrare la mia psiche, la mia sfera emotiva, il mio essere spirituale, e la loro consapevolezza del confine tra fantasia e realtà cominciava a offuscarsi. Dopo aver ottenuto il lato fisico, volevano tutto il resto, e una volta che prendevano coscienza dell'impossibilità di ottenerlo, lo volevano ancora di più. Mi compravano, e per questo volevano possedermi. Certi uomini iniziavano con un vago interesse che diventava presto un bisogno di controllo, e a volte un'ossessione. Mi sono dovuta difendere fisicamente, sparire, cambiare numero di telefono e persino cambiare legalmente il mio nome. Ironicamente, tutta questa intimità perversa con perfetti sconosciuti mi ha aiutato a smettere di confondere i confini della mia percezione delle cose e di guardare in faccia la cruda realtà. La verità è che viviamo nel patriarcato e che il sex work semplicemente alimenta questa dinamica. Pensavo che facendomi pagare dagli uomini avrebbe pareggiato i conti, ma i soldi non sono assolutamente niente in confronto agli sforzi che ho dovuto fare per proteggere le cose importanti per cui inizialmente avevo scelto questo lavoro: la mia indipendenza, la mia libertà, la mia identità. La mia esperienza come sex worker è che sono stata pagata per saziare il narcisismo maschile e in più per alimentare i principi stessi su cui si fonda la società patriarcale in cui viviamo. Sono stata pagata per far sentire un uomo al sicuro, sessualmente gratificato e superiore, non importa a che prezzo. Intanto, mentre mi pagavano per queste cose, ci si aspettava da me che rinunciassi ai miei diritti per quelli degli altri. Sono stata pagata per essere una non persona che viveva solo per servire gli uomini degli appuntamenti. La mia abilità di dissociarmi, recitare e essere servizievole è quello che mi ha garantito un grande successo da subito, non il mio intelletto, la mia intelligenza, la mia umanità e neanche la mia sessualità. Nota di fondo: nella mia esperienza ho dovuto rinunciare a avere un'identità per poter diventare un escort di successo. E nell'accettare tutto questo ho semplicemente alimentato il patriarcato e approvato le ragioni e i comportamenti degli uomini all'interno di questo sistema di dominio. Tutto questo mentre impersonavo lo stereotipo della passiva, sottomessa donna oggetto di cui il sistema ha bisogno in modo da mantenere il dominio e il potere. Dopo la disillusione e la rabbia che mi è rimasta per aver dedicato 8 anni della mia vita all'industria del sesso, che si è rivelata un inganno, oggi posso dire di essere riuscita a rimettere in piedi la mia libertà autentica, guadagnata a fatica. Uscire dall'industria del sesso, anche se ero indipendente, senza un manager, è stata la sfida più grande e la cosa più gratificante che ho fatto in tutta la mia vita. La forza di cui ha bisogno per rinunciare ai soldi e al tenore di vita a cui mi ero abituata, e prendendomi contemporaneamente il rischio di ricaderci e ricominciare di nuovo, mi ha dimostrato la profondità senza limiti della mia forza genuina e il mio vero potere interiore. Oggi sono libera di esistere, di esplorare e di crescere emotivamente, mentalmente, fisicamente, senza i limiti dei ruoli di genere, gli stereotipi sessuali e le dinamiche di potere del sistema. Sono passati 4 anni dall'ultima volta che mi sono venduta a un uomo e ho imparato più cose di me stessa nel corso di questi ultimi pochi anni che in tutta la vita trascorsa prima dell'uscita dalla prostituzione. Nonostante tutto, sono comunque grata a me stessa per le scelte che ho fatto, perché se non mi fossi persa in quel modo, non avrei potuto iniziare un percorso di presa di coscienza della mia identità più autentica, che continua anche adesso. e lasciare quel mondo è stato il vero atto di autentica autoaffermazione del sé che mi ha aiutato a comprendere tutto quello che riguarda la mia identità, il mio genere e il mio posto nella società che avevo sperato di trovare nel lavoro. Non sarei la donna che sono adesso se non avessi vissuto un'esistenza fittizia per così tanti anni. Ero letteralmente ridotta in schiavitù dal mio lavoro, ma oggi sono libera di vivere la vita delle mie condizioni. E sono qui per dirvi che non dovete adattarvi, sacrificarvi e accettare di essere schiavizzati dalle costrizioni della società per celebrare il vostro essere uniche e la vostra libertà innata. stava incastrato. Allora, adesso leggiamo un pezzo di Rebecca Mott sui fatti di Colonia, sui quali insomma fino ad ora non abbiamo detto nulla, insomma, ci sembrava opportuno ritornarci ogni tanto. E quindi il pezzo che lei ha pubblicato è Colonia, Rebecca Mott e due elefanti nella stanza. E niente, lo leggiamo. Vogliamo esprimere il nostro dolore e la nostra rabbia per le violenze sessuali commesse contro le donne a Colonia e in altre città europee la notte di Capodanno, attraverso le parole della nostra amica sopravvissuta alla prostituzione, Rebecca Mott. Rebecca è stata prostituita dall'età di 14 anni fino ai 27, è attivista abolizionista e scrive della sua esperienza sul blog Rebecca Mott, Excited Women Exploration, rebeccamott.net. È la cofondatrice del gruppo Sex Trafficking Survivors United, lo trovate tranquillamente su internet, ed è un gruppo internazionale di persone sopravvissute alla prostituzione che sono impegnate nell'attivismo abolizionista. Ve lo consigliamo perché è molto interessante, e poi ci sono molte testimonianze delle dirette interessate, quindi chi meglio di loro può parlare di questi argomenti. E conseguenze: non uso questo blog per commentare le notizie, ma quello che è accaduto in Germania mi ha fatto molto arrabbiare e stare male. Come ho detto nello scorso post, è a causa della grande ipocrisia della maggioranza delle reazioni, oltre al fatto che queste reazioni diventano una scusa per il razzismo e l'ignoranza. Tutto questo cercare di rendere invisibile l'elefante nella stanza, o forse i due elefanti nella stanza. Che gli uomini di massa di tutte le culture, di ogni tipo di provenienza socio-economica e in qualsiasi periodo storico, hanno abusato sessualmente delle donne. Che la Germania è diventato il bordello d'Europa, che significa che va bene violentare, abusare psicologicamente, torturare e perfino uccidere donne e ragazze dal momento che le paghi. Tutto questo è sbagliato solo e solo se lo fai alle donne non prostituite e può essere spacciato come estraneo alla cultura tedesca. Ho provato a stare zitta mentre la bile mi saliva in gola. Ma quando ho sentito i politici tedeschi affermare che quella violenza era orribile, volevo gridare. Di quali donne state parlando? State parlando delle prostituite nei mega bordelli, il cui numero sta aumentando in Germania? Parlate delle donne nei porno girati in Germania, dove la tortura è la norma? Parlate delle donne prostituite sulla strada, che vivono con la consapevolezza che lo stupro è la loro normalità e che possono sparire in qualsiasi momento? Parlate delle escort che conoscono la tortura sessuale, le minacce di morte e la violenza mentale che ti scava dentro? No. State parlando solo delle donne non prostituite, che devono essere protette da questi orribili uomini stranieri, perché non dobbiamo accorgerci che gli uomini tedeschi potevano far parte della folla che ha abusato sessualmente delle donne. Personalmente, penso che avete ristretto la categoria di donne che meritano il vostro rispetto alle sole europee bianche e che devono avere cittadinanza tedesca. Perché questo vi porterà un sacco di voti. Tenere in vita il mercato del sesso, mentre diffondi l'idea che la maggioranza della violenza di cui sono vittime le donne tedesche sono commesse da uomini stranieri e uomini che provengono da una cultura altra. Odio le vostre stronzate preconfezionate, perché sono sicura che siete consapevoli che la questione è molto più complessa. Ma non vi importa se l'ignoranza vi serve per stare al potere. Odio anche la dissociazione di molte femministe, specialmente le femministe liberal. So che la maggioranza delle femministe liberal sono a favore del sex work e si rifiutano di vedere un collegamento tra la legalizzazione della prostituzione e l'aumento della violenza sessuale su tutte le donne. Questa dissociazione mi fa stare male nel profondo del mio essere. Per giustificare la prostituzione come sex work devi ignorare tutte le torture, le violenze mentali, tutti gli omicidi delle prostitute. Questo è quello che accade quando guardo le cosiddette discussioni femministe degli eventi accaduti in Germania. Nessuna si interroga sulla morte delle donne prostituite in Germania. Nessuna che si interroghi sull'aumento del tasso di mortalità delle donne prostituite da quando la prostituzione è stata legalizzata. Nessuna si interessa alle torture quotidiane che sono la norma nei bordelli tedeschi. Nessuna quanto disumanizzanti sono i mega bordelli. Ma il sesso pornografico viene inflitto alle donne non prostituite, allora è orribile e diventa una questione femminista. Scusate se piango con una risata contro la vostra ipocrisia. La violenza sessuale sarà la norma fino a quando il mercato del sesso sarà legale in Germania e parte integrante della cultura tedesca. Naturalmente la maggioranza di quella violenza rimarrà nascosta e considerata un non crimine, perché accade dentro il mercato del sesso. Quando si sceglie di legalizzare la prostituzione, stiamo sostenendo che la categoria delle prostitute sia subumana. Sosteniamo che sia impossibile violentare una prostituta. Sosteniamo che una prostituta non prova emozioni umane come il terrore, il dolore o il disorientamento. Sosteniamo che non è possibile fare del male ad una prostituta perché è stato deciso che non sente dolore. E sosteniamo che uccidere una prostituita è un non evento, ma significa soltanto disfarsi di immondizia. In questo ambiente culturale, perché dovrebbero uomini qualsiasi che vivono o vengono a visitare la Germania pensare che le donne hanno diritto all'integrità e alla dignità? Quello che gli uomini della folla devono imparare è che devono pagare per la violenza sessuale prima e poi a nessuno importerà più nulla. My heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, wonder why. You had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but rich men can't imagine Paul. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. So one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through like I can never think it true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane. That's stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'd be old and think of all the stories that we could have told. I said, one day, baby, we'd be old. Oh, baby, we'd be old and think of all the stories that we could have told. I said, one day, baby, we'd be old. Oh, baby, we'd be old. Oh, baby, we'd be old. So, baby, we'd be old. So baby, we'll be old. So baby, we'll be old. So baby. could have told. Colonialismo, capitalismo e prostituzione. Traduciamo una riflessione sull'intreccio fra colonialismo, capitalismo e prostituzione di una nostra amica, l'attivista asiatica immigrata in Canada Alice Lee, da anni impegnata a fianco delle donne immigrate per combattere razzismo, povertà e sfruttamento sessuale. Parlare in astratto del rapporto tra razza, classe e genere, adottando il punto di vista di chi non vive sulla propria pelle le discriminazioni razziali e lo svantaggio socio-economico, per giustificare in nome della libertà di scelta lo sfruttamento delle altre, significa adottare un'ottica neocolonialista. Significa non riconoscere soggettività politica a quelle donne che prendono parola contro il sistema patriarcale neoliberista che le opprime. Noi riconosciamo forza politica a queste voci e impariamo dal loro impegno e dal loro coraggio. Il capitalismo e la prostituzione sono la nuova forma, la nuova manifestazione dell'imperialismo e del colonialismo. Non è una coincidenza che la pornografia e la prostituzione usino stereotipi razzisti per vendere e sfruttare le donne. La prostituzione è uno strumento per soggiogare le donne, specialmente le donne di colore, rinforzando il sessismo e la gerarchia razziale su scala mondiale. La normalizzazione della sessualizzazione razzista permette che le donne di colore e le donne povere siano usabili in tutte le nazioni. Il nord del mondo non occupa più le nostre terre, ma può occupare i nostri corpi e definire il loro valore. Questo renderci altre gli permette di vederci meno di umane. Lo stupro, la violenza domestica e la pornografia servono a mettere le donne al loro posto. Questa è la funzione della violenza maschile sulle donne. Quando le donne sanno e vedono che le altre donne sono violentate, picchiate o prostituite, noi sappiamo che questo può facilmente succedere ad ognuna di noi. A volte uno degli argomenti usati a favore della prostituzione è che essa rappresenterebbe uno strumento per prevenire che gli uomini violentino le donne comuni. Ma se accettiamo la prostituzione, accettiamo il fatto che esista una classe di donne a disposizione per l'uso, per impedire che gli uomini possano violentarci o picchiarci. Solo quando le donne acquisteranno libertà e autonomia potremo essere libere. I paesi del primo mondo, i politici di sinistra, lottano per la conservazione del pianeta, contro il razzismo, contro qualsiasi cosa, ma hanno deciso di ignorarci. Trovo tutto questo inaccettabile. Vedo come in realtà sostengano deliberatamente gli imperialisti e i colonialisti e costruiscano argomentazioni e teorie che sostengono l'imperialismo e il capitalismo. Quello che vogliamo è che cambino rotta e lottino anche per noi. capisci se ne me vrazza cala in mosca fa in Anche per questa sera abbiamo finito. Noi vi diamo appuntamento alla prossima volta. E se vi è piaciuta questa puntata e le altre puntate che avete sentito, vi rimandiamo al sito www.resistenzafemminista.it, dove potrete trovare moltissimi articoli interessanti su questi argomenti. A presto. Ciao. Kalene moske palene binde pinde kam wenn es suschka e kunden sin ne buschke sinde da bisch gesehen me bratze kalene moske palene binde pinde kam wenn es suschka e kunden sin ne buschke looks in my face. Oh, got too damn much for me. She's got too damn rough. And I pushed away my plate. Said, boys, I've had enough. And I laid upon the table another piece of meat. And I opened up my veins and I said, come on, eat. Eat the summer cannibal. Eat, you eat. You ate the summer cannibals. Eat, you eat. You ate the summer cannibals. Que ya no va, Itzahualuba, digo que ya no va.